Mare, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Attività ridotte, fornitura di acqua, indumenti leggeri e creme protettive nelle ore più calde della giornata. Lo prevede l'accordo per il settore agricolo messo a punto da sindacati e associazioni di categoria. Sabato da Bollino Rosso, traffico in autostrada in aumento in queste ore, soprattutto sulla A4 in direzione Trieste. Anche sul tratto Veneto, code chilometriche di mezzi in arrivo. Evasione fiscale al di sotto della media italiana, ma in Friuli Venezia Giulia ogni 100 euro di gettito incassato dal fisco se ne vadono 11. 1.600.000.000 evasi nel 2020, il calcolo della CGA di Mestre. A Gorizia si definiscono gli ultimi dettagli dell'operazione di brillamento della bomba della Seconda Guerra Mondiale ritrovata a nord della Transalpina. Domani mattina evacuazione per quasi 700 famiglie della zona. I medici vanno in ferie e la qualità dell'assistenza ne risente. I medici internisti hanno calcolato un calo del 62% delle attività ambulatoriali. Non bastano straordinari e turni di riposo saltati. Festa dei diplomi al Malignani di Udine, occasione di confronto con le imprese del territorio, presentati progetti e prodotti per i quali è già stata avanzata domanda di brevetto. Una banda in rosa raccoglie fondi per donne in difficoltà, la storia di una formazione musicale che riunisce 50 musiciste di tutto il Friuli occidentale, una banda itinerante che nella sede di Valvasone sta mettendo a punto nuovi concerti. Buongiorno da Maria Spezia e Andrea Covri in studio per questa edizione del giornale radio regionale. I cambiamenti climatici con ondate di calore sempre più frequenti, intense e lunghe impongono una tutela diversa dei lavoratori più esposti al sole e alle alte temperature. Se ne sta discutendo a livello nazionale tra sindacati, governo, associazioni datoriali, INPS e INAIL che stanno redigendo un protocollo nazionale e va in questa direzione anche l'accordo che CGIL e CISL e UIL stanno per chiudere in regione per il comparto dell'agricoltura. È il primo accordo di prevenzione per gestire eventi climatici estremi messo a punto in regione da sindacati e associazioni di categoria per il settore dell'agricoltura. Ci stavano lavorando da tempo, ma il gran caldo delle ultime settimane ha spinto ad accelerare per scongiurare rischi per la salute dei lavoratori. Fly CGL, Fai CISL, Willa Will, Confagricoltura, Coldiretti e CIA lo sottoscriveranno nei prossimi giorni. Il segretario generale della FAIL CISL, Stefano Gobbo. Questo protocollo prevede un'attività ridotta, la fornitura costante per i lavoratori di acqua, degli indumenti leggeri e, perché no, anche delle creme solari a protezione per quelle che sono ore più calde nella giornata, perché ricordiamo sempre che in questo momento il lavoratore va protetto. Il protocollo impegna i datori di lavoro anche a garantire zone ombreggiate con tende o gazebi e a verificare le previsioni meteo, prevedendo anche controlli sul rispetto delle regole. Sul fronte nazionale, intanto, sindacati, governo, parti datoriali, INPS e INAIL lavorano ad un analogo protocollo che, come durante la pandemia, garantisca la cassa integrazione attraverso norme speciali. In agricoltura è prevista solo per i tempi indeterminati, per gli stagionali, che nel settore sono la maggioranza dei circa 18.000 occupati in regione, scatta solo in caso di stato di calamità, come accaduto col Covid. In attesa degli sviluppi, la gran parte delle aziende agricole sta intanto già correndo ai ripari, ma la situazione resta difficile. Ancora Gobbo. C'è una sofferenza importante da parte dei lavoratori. Abbiamo delle aziende virtuose in questo momento che stanno riorganizzando la loro attività per svolgere lavorazioni pesanti nelle giornate, negli orari più freschi, con un anticipo dell'attività lavorativa e un termine ovviamente che non prevede l'attività nel pomeriggio. Purtroppo ci sono anche delle lavorazioni, pensiamo alla zona delle Barbatelle, dove l'attività si svolge in alcune aziende per tutta la giornata. Lara Boccalonti, GR Friuli Venezia Giulia. L'esodo estivo ha fatto sentire i propri effetti a metà mattina sulla rete autostradale regionale in direzione Trieste, in A4 code all'Isert all'uscita di Redi Puglia e tra San Giorgio di Nogaro e il bivio con la A23. I tempi dei 10 km e delle ore di coda forse sono finiti. Infrastrutture, autostrade migliori, la trattazione e lo scaglionamento delle ferie non risolvono però tutto il traffico in uscita dall'Isert. Poco prima di mezzogiorno erano 3.000 i transiti orari alla barriera, 2.500 alle 9 del mattino. Traffico comunque in aumento, con il picco che potrebbe arrivare attorno alle 2. Finora a parti rallentamenti nella parte conclusiva, con l'autovia che ha consigliato il bypass tramite Villesse e la Slovenia per i vacanzieri diretti in Croazia, è filato tutto liscio nonostante il caldo. L'azienda ha schierato ausiliari, ha usato app e pannelli luminosi per informare i viaggiatori, che rispetto all'anno scorso sono di meno. Se nei primi weekend di luglio si è registrato un segno più dei transiti, nella giornata di oggi sono scesi del 4%, pochi al casello, gli automobilisti italiani, tante le macchine svizzere, francesi e tedesche con a bordo serbi e rumeni che tornano a casa per le vacanze estive, mentre come al solito da Germania, Olanda e Austria transitano i turisti delle Finistria e delle spiagge croate. I prezzi crescenti dall'introduzione dell'euro sembrano non spaventare gli abituè del mare dalmato. Monfalcone, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Sono stati aperti al traffico i primi 5 chilometri a tre corsie del tratto tra Alvisopoli e Portogruaro dell'autostrada 4. Ad oggi sono quindi 55 chilometri totali di terza corsia nel tratto compreso tra Quarto d'Altino e il nodo di Palmanova. Il cantiere è stato tra i più complessi del progetto della terza corsia, a fronte di 24 opere e della demolizione e del completo rifacimento di tutte le opere come ponti, sottopassi, sovrappassi e attraversamenti idraulici. La cronaca: si teme il peggio per un triestino di 71 anni, Maurizio Kalik, disperso in mare in Croazia. A dare notizia via social, la società triestina Sport del Mare, di cui Kalik è socio. Ieri pomeriggio l'uomo si trovava in crociera con la moglie sulla propria imbarcazione a vela di 11 metri e stava risalendo l'Istria quando, tra Parenzo e Cittanova, si è scatenato un nubifragio con forte vento. L'uomo, impegnato nelle manovre per ridurre la velatura, è stato sbalzato in mare da un'onda. Senza esito i tentativi di recupero da parte della moglie, che ha lanciato una richiesta di soccorso, attivate le ricerche da parte delle autorità croate, che ieri non hanno dato esito. Coinvolti nelle ricerche anche il figlio e i soci della Triestina Sport del Mare. 11 miliardi e 600 milioni di evasione fiscale in Friuli Venezia Giulia nel 2020. Secondo l'ufficio studi della CGA di Mestre, il livello di evasione nella nostra regione è comunque al di sotto della media nazionale. In Friuli Venezia Giulia l'evasione è più contenuta rispetto alle altre regioni. La stima arriva dalla CGA di Mestre su elaborazione dei dati Istat del 2020. A fronte di 90 miliardi di evasione fiscale stimata in Italia nel 2020, sostiene il centro di calcolo della CGA di Mestre, è come se a ogni 100 euro di gettito incassato dal fisco ne venissero evasi 13 euro e 2 centesimi. In Friuli Venezia Giulia e nel nord-est questo mancato incasso del fisco stimato arriverebbe a 11 euro e nel mezzogiorno supererebbe i 19. Ma per la categoria dei lavoratori autonomi c'è anche un altro importante divario tra nord e sud. Mediamente nel Friuli Venezia Giulia i lavoratori autonomi dichiarano poco più di 33.000 euro all'anno, al sud solo 23.000. Differenze che sono sicuramente riconducibili alle diverse situazioni economiche e sociali presenti nelle diverse aree del paese. Non è affatto l'evasione dell'IRPEF il principale responsabile dell'ammanco del fisco italiano, sostengono ancora al centro studi della CGA di Mestre, che inseriscono invece tra i maggiori responsabili gli evasori totali, che per definizione sfuggono al fisco, e quindi le grandi aziende multinazionali e del web. Nada Cioc, TGR Friuli Venezia Giulia. Sta lavorando a pieno regime la macchina della sicurezza messa a punto dal comune di Gorizia in vista del brillamento dell'ordigno bellico rinvenuto in Slovenia vicino alla stazione della Transalpina. Le operazioni di bonifica da parte degli artificieri sloveni si svolgeranno nella mattinata di domani con inizio alle 10. Per questo, in via precauzionale, i residenti entro i 600 metri di distanza dal luogo del ritrovamento dovranno lasciare le loro case tra le 7 e le 9, come stabilito in prefettura dal confronto tra le varie forze dell'ordine. Si potrà rientrare nella propria abitazione al termine dell'intervento di brillamento da parte degli artificieri sloveni, presumibilmente entro le 14. Per avvisare le 670 famiglie interessate, il comune ha organizzato un volantinaggio nel quartiere di Montesanto, mentre continuano a girare le macchine della protezione civile che diffondono messaggi con l'altoparlante. Per ogni informazione o per segnalare problemi ci si può rivolgere alla polizia locale al numero 0481 38 3206. Per tutti coloro che non avranno un luogo alternativo in cui andare, il comune metterà a disposizione un punto di ricovero nella sede della Protezione Civile in via San Michele. Per raggiungerlo sarà attivo anche un servizio di bus navetta con partenze dalla fermata delle corse urbane in via Caprin alle 7, alle 8 e alle 9. Saranno ammessi nel punto di raccolta anche gli animali domestici. La Protezione Civile ha esteso fino alla mezzanotte di oggi l'allerta meteo per l'instabilità atmosferica che sta caratterizzando il quadro meteo. Dopo quelli di ieri, che hanno causato disagi e danni seppur limitati, possibili anche oggi temporali violenti accompagnati da forti raffiche di vento. Al momento c'è nuvolosità variabile sulla regione, queste le temperature registrate alle 11, a Trieste 27 gradi, mare quasi calmo con temperatura di 26 gradi e mezzo, a Pordenone 27 e mezzo, Udine e Gorizia 26 e mezzo, a Tolmezzo 23 gradi, Forni di Sopra 20, Tarvisio 19 e mezzo, Piancavallo 17 e mezzo, sul Monte Lussari 14 gradi e mezzo, Monte Zoncolan 13, tornando sulla costa Grado 27 gradi e mezzo, a Lignano 27, con temperatura del mare in entrambe le località di 26 gradi. Le previsioni a cura dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale per le prossime ore: tempo instabile con cielo variabile su pianura e costa e maggiore nuvolosità sulla zona montana. Saranno possibili rovesci e temporali sparsi e intermittenti, di cui alcuni potranno anche essere localmente forti. Per domani su pianura e costa cielo in prevalenza poco nuvoloso con venti a regime di brezza. Sulla zona montana cielo variabile e non si esclude qualche isolato rovescio o temporale pomeridiano che potrebbe interessare in seguito anche la pedemontana. I temi della salute: in estate negli ospedali della regione la carenza di personale è insostenibile. Lo sottolinea la FADOI, la Federazione dei Medici Internisti Ospedalieri, che ha effettuato una ricerca in 8 unità operative di medicina interna degli ospedali del Friuli Venezia Giulia. È emerso che tra giugno e settembre le attività ambulatoriali diminuiscono del 62,2% dei casi e sono rimodulate nei tempi nel restante 37,8% degli ospedali della regione, mentre complessivamente la qualità dell'assistenza sanitaria è compromessa in modo sensibile nel 63% dei casi. Ciò nonostante molti medici facciano gli straordinari per coprire i turni di notte e il 37,3% salti i riposi settimanali. La situazione nei reparti di medicina interna rispecchia quello che avviene anche in larga parte dei dipartimenti di altre specialità mediche, evidenzia il rapporto. In Friuli Venezia Giulia la carenza di personale nei reparti di medicina interna rappresenta un problema di non semplice risoluzione nel breve termine, commenta Stefano De Carli, presidente regionale FADOI. I giovani laureati preferiscono seguire carriere più remunerative rispetto a una più lunga e complessa come la medicina interna, aggiunge De Carli. Ne consegue che gli organici già ridotti nel corso dell'anno sono ancora più contratti durante il periodo estivo. Torniamo alla cronaca. Questa mattina, intorno alle 8.30 a Casarsa, lungo Viale Venezia, c'è stato uno scontro tra una vettura e un furgone che ha coinvolto 3 persone. Una donna è stata elitrasportata all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo, stabile e cosciente. Un'ambulanza ha trasportato invece un uomo all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone con ferite non gravi, mentre la terza persona ha rifiutato il trasporto in ospedale. A Trieste, in via D'Annunzio, intorno alle 10.30, è stato investito un pedone trasportato in codice verde dell'ospedale di Cattinara. Con la cronaca ci spostiamo a Lignano, dove 8 giovani sono stati denunciati dalla polizia per rissa aggravata. I fatti risalgono alla notte del 16 luglio scorso, quando all'interno della discoteca Ca Margherita è scoppiata una zuffa, proseguita poi all'esterno del locale e poi sulla strada con un inseguimento tra autovetture. La polizia era intervenuta per dividere i contendenti, alcuni dei quali sono poi finiti al pronto soccorso. Il questore di Udine nei giorni scorsi aveva disposto la chiusura del locale per 10 giorni e ora nei confronti degli 8 denunciati ha emesso anche altrettanti decreti di divieto d'accesso agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico intrattenimento. Festa dei diplomi oggi all'Istituto Malignani di Udine, che è stata anche l'occasione per un momento di confronto tra gli allievi e gli imprenditori del territorio. È il momento dell'orgoglio di allievi ed ex allievi, ma anche occasione di apertura al territorio e vetrina dei migliori talenti. È la festa dei diplomi del Malignani, la scuola più grande d'Italia per numero di classi e studenti. Momento clou la consegna di premi e borse di studio a chi si è saputo distinguere anche con progetti di caratura nazionale o internazionale. Oliviero Barbieri, dirigente scolastico del Malignani. Gli allievi, quando si cimentano in attività innovative, danno il meglio di loro e poi c'è una ricaduta didattica sorprendente. Poi loro hanno la freschezza delle idee, non sono condizionati come gli adulti. Esther Iannis, direttrice dell'Istituto Tecnico Superiore Malignani. Rolando Paolone, che è del Consiglio di Amministrazione di Danieli, diceva questi luoghi, Malignani e MIT, sono per noi una fucina di opportunità per le nostre aziende. 17 le borse di studio elargite anche in ricordo di chi non c'è più. C'è chi ha partecipato a un concorso scientifico e potrà presentare il proprio progetto in Texas. Abbiamo creato un biofilm biosostenibile, quindi biodegradabile, idrosolubile e anche antibatterico per i vestimenti, per la frutta, per evitare di farla decomporre. E ci sono studenti che hanno inventato un concime idrosolubile e sostenibile formato da fondi di caffè e farina d'ossa, menzione speciale della giuria del Premio Nazionale dei Campionati di Imprenditorialità in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, del Merito e Junior Achievement, progetto per il quale è stata già presentata domanda di brevetto. Miriam Cresta, amministratore delegato di Junior Achievement Italia. Questi ragazzi dopo il brevetto possono, questo con l'aiuto anche delle camere di commercio, oltre che a registrarsi a un albo speciale, quello delle mini imprese studentesche, anche creare una vera e propria impresa. C'è un pensiero di continuare il progetto insieme a tutta la classe, quindi probabilmente resteremo sul territorio e continueremo a svilupparlo in futuro. Premiato infine chi si è distinto nei risultati scolastici. Come avere la media del 10, tondo tondo. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Un flash mob sulla spiaggia di Marina Giulia a Monfalcone per protestare contro il sindaco Anna Cisint, che ha dichiarato che è inaccettabile che stranieri musulmani entrino abitualmente in acqua vestiti. L'associazione Monfalcone Interetnica, che per domani mattina alle 9.30 ha organizzato la protesta con tanto di bagno per i partecipanti che resteranno vestiti di tutto punto, ha detto che la manifestazione è stata organizzata proprio per prendere le distanze dall'amministrazione comunale, che vorrebbe impedire l'uso del burkini in spiaggia. La locandina dell'iniziativa riporta il logo dell'associazione Monfalcone Interetnica, accompagnato dallo slogan «Il mare è di tutti e il costume è mio». Intende raccogliere fondi per iniziative benefiche dedicate alle donne, la formazione musicale tutta in rosa composta da bandiste del Friuli Occidentale. L'abbiamo incontrata durante le prove. Una formazione di 50 musiciste, tutte donne, per la banda in rosa, che riunisce bandiste da tutto il Friuli Occidentale, una formazione itinerante. Le incontriamo durante le prove nella sede della banda di Valvasone, che ha l'obiettivo di raccogliere fondi per attività benefiche rivolte in particolare ad altre donne. Nato nella primavera del 2022, il progetto sta crescendo e raccogliendo sempre più adesioni. La direttrice Monica Giust. La formazione è nata nella primavera del 2022 da un'idea partita da me e dall'altra direttrice, la maestra Mara Guglielmin, con l'idea appunto di riunire tutte le ragazze, possibilmente della provincia di Pordenone, poi ci siamo anche allargate perché abbiamo anche ragazze che vengono dal Veneto, e formare appunto questa orchestra femminile per poter dare una mano, aiutare insomma con delle raccolte a fondi le associazioni che lavorano sempre nel campo delle donne, e così per aiutare e per raccogliere fondi. La direttrice Mara Guglielmin. C'è voglia di fare musica? La risposta è stata subito molto numerosa. Adesso abbiamo raggiunto un numero di circa 50 componenti ed è sempre in crescita, perché le bandiste della provincia di Pordenone stanno rispondendo molto bene alla partecipazione in questo gruppo, e il gruppo sta crescendo sempre più. Valentina Voledo è consigliera Anbima Pordenone, l'associazione nazionale che riunisce le bande. La formazione coinvolge ragazze piccolissime dall'età delle medie a insomma signore più grandi, veramente un'ampia fascia d'età, e è sicuramente un progetto nuovo. Anbima ha assolutamente accolto questo progetto portato dalle maestre Mara e Monica, perché ci ha portato appunto un ventaglio rosa nuovissimo nella nostra provincia, che penso che sia anche proprio il primo progetto in regione. Valvasone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Alle 18.30 l'inaugurazione ufficiale di Mittelfest a Cividale, dove in serata in Piazza Duomo alle 21.30 va in scena il Visconte di Mezzato, tratto dal libro di Italo Calvino, del quale quest'anno ricorre il centenario dalla nascita. Lo porta in scena l'attore romano Vinicio Marchioni, accompagnato dai ritmi balcanici della band Radio Zastava. Il centro di Cividale da oggi fino al 10 settembre torna pedonale nei weekend, con la chiusura alle auto dalle 19 del sabato alle 22 della domenica. I residenti del centro potranno comunque raggiungere con l'auto la propria abitazione. Lo sport, il calcio, terzo test di preparazione campionato oggi per l'Udinese che in Austria a Seeboden alle 15.30 giocherà contro i ciprioti del Paphos. Una nuova occasione per vedere all'opera i nuovi acquisti del centrocampo Zarraga, Camara e Pejčić e dell'attacco Brenner e Lucca. A Trieste in calendario la 16ª edizione per il meeting triveneto di atletica leggera, a cui è prevista la partecipazione di circa 150 atleti provenienti da 35 paesi, a cui si aggiungono gli atleti delle categorie giovanili e master. Un'occasione per gli sportivi italiani in vista dei campionati mondiali di Budapest in programma in agosto. Tra i partecipanti anche i triestini Max Mandusic e Lorenzo Modugno, gare al campo Draghicchio di Cologna dalle 15.50. Softball è tutto pronto per il via del gruppo C della fase a gironi della Coppa del Mondo di softball femminile in programma da oggi al 26 luglio a Castions di Strada e Butrio. Le azzurre fresche della medaglia di bronzo alla Canada Cup affronteranno avversarie di primo livello quali le campionesse olimpiche del Giappone e il Canada bronzo a Tokyo 2020, oltre a Venezuela, Nuova Zelanda e Filippine. Stasera alle 20 allo stadio comunale di Castions di Strada l'esordio contro il Venezuela col primo lancio celebrativo affidato alla schermitrice udinese Mara Navarria. Baseball, Serie A, Pool Scudetto e New Black Panthers di Ronchi dei Legionari tornano in campo oggi sul campo del Godo Baseball in provincia di Ravenna per la rivincita della gara che ieri ha visto i romagnoli vincere in rimonta per 4-3 al decimo inning contro i ronchesi. La partita inizierà alle 15, giunti alla terza giornata di ritorno in classifica i New Black Panthers sono al terzo posto del girone dietro a Macerata e Nettuno, chiudono Godo e Modena. Corsa in montagna, il team Aldo Modo Paluzza ha dominato la scena nella staffetta organizzata dalla società sportiva Jalmicco con un percorso veloce tra campagna e asfalto. 88 le squadre ai nastri di partenza. Nel settore femminile hanno prevalso le giovani e favoritissime atlete dell'atletica Malignani Libertas Udine con il trio Francesca Gariup, Laura Pavoni e Arianna Delpino. La Aldo Moro Paluzza è stata premiata come miglior società sportiva dell'evento. Per i concerti dell'estate, affidato alla star del rap crossover Salmo, il primo appuntamento del 63esimo Festival di Maiano. L'artista sardo si esibirà nella cornice del suo Summer Tour proponendo sia i suoi brani più noti sia tracce dall'ultimo disco. Biglietteria aperta alle 19, inizio concerto alle 21.30. Al No Borders Music Festival 2023 invece oggi tocca agli Scancanansi che saranno in concerto alle 14 ai Laghi di Fusine. Infine l'australiano Lucky Dolly, star dell'organo elettromeccanico, si esibirà a Trieste, al Castello di San Giusto, alle 21. A Gorizia la terza giornata del premio internazionale Sergio Amidei dedicato alle sceneggiature. Ospite speciale Lello Arena per la presentazione di No Grazie, il caffè mi rende nervoso, film dell'82 interpretato con Massimo Troisi. Appuntamento al Kinemax alle 15, a fine proiezione l'incontro con l'attore. Ultimo appuntamento a Udine del 39esimo congresso internazionale Willems organizzato dal CRDM Italia, il centro di ricerca e divulgazione musicale. Alle 20.30 nella chiesa di San Pietro Martire in programma il concerto del Willems International Choir. Il progetto per un'educazione al linguaggio musicale di base in Italia, ideato e varato dal CRDM che ha sede a Maiano, è rivolto a giovani e giovanissimi. Il metodo Willems si basa sullo stretto legame fra musica e uomo. L'itinerario didattico si fonda sulla conoscenza vissuta degli elementi costitutivi della musica. Lo sviluppo della metodologia ricalca il procedimento d'apprendimento della lingua materna. Altri appuntamenti: Alberto Bubacar Malanchino, il Gabriel della serie televisiva Doc Nelle tue mani, il protagonista di Sid, Fin qui tutto bene, PS in programma a Udine al Teatro San Giorgio alle 21 nella cornice dell'ottava edizione di Festi, il festival estivo del litorale. È il racconto del mulino di Bruna Braidotti, lo spettacolo in cartellone a Pordenone nell'edificio ottocentesco del mulino Pordenone alle 20.30. Il festival triestino a Prodi prosegue col cineconcerto dei The Trigger Trio intitolato Uomo, Macchina, un viaggio cinematico a Trieste all'auditorium del Museo Revoltella alle 21. La 36esima edizione della rassegna Tango da pensare prevede il concerto La grande musica del cinema italiano con musiche di Piazzolla e Morricone al Castello di Coloredo di Monte Albano alle 21. Nell'ambito di Note parole in rifugio oggi alle 16 al rifugio di Brazzà verrà rappresentato Come avesse le ali di un angelo, salite e vita di Emilio Comici con Marzia Postogna, Adriano Giraldi e Cristina Santini. L'Astad di Trieste organizza un aperitivo per far conoscere i cani ospiti del rifugio di Opicina in strada per Rupin Grande dalle 17.30. Il ricavato sarà destinato alla gestione degli ospiti del rifugio. Infine una notizia di pubblica utilità: Palmanova, ieri è stato annullato il concerto di Jimmy Sachs e della Symphonic Dance Orchestra in programma in Piazza Grande alle 21.30 a causa del forte temporale che si è abbattuto sulla città. Per chi avesse acquistato il biglietto verranno attivati i rimborsi che si possono richiedere da martedì 25 luglio e non oltre giovedì 31 agosto su ticketone.it, il circuito ufficiale di vendita del concerto, alla sezione info e modalità rimborsi. Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il numero 892101. Era l'ultima informazione di questa edizione del nostro notiziario regionale, che è andato in onda grazie alla collaborazione tecnica di Mauro Ciccarelli e Roberto Cavallari. In redazione ha collaborato Laura Sarasini. Da Maria Spezia e Andrea Covre, grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento d'ascolto. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.